Cari amiche, cari amici, benvenuti a Bruxellando, a Radio Alma, Marie D ai microfoni, vi dà il benvenuto e vi augura un'ottima serata. Saluto Dani M in regia. Buona serata a tutti. Il nostro George, che sta imparando a fare il regista. Certo, da qui, insomma, vi controllo tutti. Così si diverte. La nostra Fiordaliso. Buonasera. E siamo tutti contenti di essere qui con voi in questa atmosfera, come avrete potuto ascoltare dalle musiche iniziali, in questa atmosfera natalizia, anche se dobbiamo dire che a Bruxelles non fa freddo, stranamente. Stiamo vivendo un bellissimo autunno. Non mi dilungo molto, semplicemente perché abbiamo due ospiti, uno in studio e l'altro invece al telefono dall'Italia. Entrambi hanno tanto da raccontarci e speriamo di essere bravi a coordinarci con i tempi. Quindi iniziamo immediatamente con Carola Maggiulli, la quale è responsabile dell'associazione Mondo Arte a Bruxelles, un'associazione culturale che è nata proprio da poco. Quindi Bruxellando è proprio felice di poter ospitare Carola qui questa sera. Carola, benvenuta e soprattutto raccontaci, prima di parlare dell'associazione, un po' di te. Allora, buonasera a tutti, grazie per avermi invitato, è un grande piacere essere con voi e congratulazioni per la vostra radio. Ti racconto di me rispetto a questa attività, penso. Io sono da tanti anni a Bruxelles, sono venuta a Bruxelles come molti di noi per lavorare nelle istituzioni comunitarie, dunque faccio un lavoro presso un'istituzione, è un lavoro che non ha niente di artistico, ma ho sempre coltivato, fin da bambina, a causa direi della mia famiglia, degli interessi culturali in senso largo e in particolar modo per la pittura, l'architettura e la musica. E quindi già da molto tempo ho cercato di vivere in uno spazio, in una casa che mi permettesse di organizzare degli eventi di tipo culturale. Da diversi anni organizzo mostre e concerti, diciamo metto a disposizione di giovani artisti il mio spazio in modo che loro possano poi prodursi e farsi conoscere. E invece da un po' di tempo a questa parte ho cambiato un pochino il tiro, cioè ho aggiustato il tiro aggiungendo un'altra attività, perché l'aiuto ai giovani artisti è sempre qualcosa che mi è caro e che continuerò a fare, ma ho aggiunto una nuova attività un po' più strutturata, che è l'attività di cui parleremo questa sera. Allora, siamo proprio curiosi di sapere come nasce Mondo Arte. Ma nasce per caso, come spesso le cose più interessanti e più simpatiche, direi, della vita, perché io sono milanese e da molti anni vado in vacanza a Positano e sia a Milano sia a Positano ho avuto modo di frequentare una galleria d'arte che quindi esiste, la stessa galleria esiste in due sedi diverse in Italia, a Milano e a Positano. E ho avuto modo di essere prima cliente di questa galleria d'arte e dopo di diventare anche amica del proprietario, amica dello staff che lavora con questa galleria. Questa galleria si chiama Mignacci Art Gallery, la sede principale è a Milano in via Brera al 3, cioè proprio in pieno centro direi dell'arte di Milano, praticamente di fronte all'Accademia delle Belle Arti e di fianco alla Scala. E poi un'altra sede a Positano. E questa, conoscendo questo gallerista, ho conosciuto anche tutte le sue molteplici attività, perché accanto alla galleria d'arte c'è anche un'associazione culturale che lui da anni sviluppa in Italia e un po' in tutto il mondo, perché sono presenti anche in altri continenti, negli Stati Uniti e in Asia. Tra l'altro mi fa piacere aggiungere un dettaglio che mi ha particolarmente poi sorpreso, perché quando sono stata invitata a partecipare ad uno dei tuoi vernissaggi ho anche conosciuto Antonio Mignacci, che saluto, con i quali posso dire di condividere i Natali, perché anch'egli come me cilentano, quindi questa appartenenza anche territoriale specifica, cioè come quella del Cilento, per me è stata una piacevolissima sorpresa in un contesto ovviamente multiculturale e multilinguistico come quello di Bruxelles. Allora, ritorniamo, quindi salutiamo Antonio, il quale è di ritorno, credo proprio. Che è di ritorno da Miami, dove è andato a fondare un'altra galleria d'arte insieme con un grandissimo pittore italiano che si chiama Sandro Chia. Quindi ciao Antonio, se ci senti, sei di ritorno a Milano giusto stasera. Quindi anche a lui va un pensiero graditissimo questa sera. Ritorniamo allora alle attività, agli eventi che saranno organizzati dall'associazione. Vogliamo soffermarci sugli eventi, magari iniziamo con quelli proprio legati alla pittura, visto che è poi il nome principale che è stato attribuito all'associazione. Sì, prima di tutto, se permetti, vorrei dire che questa attività che stiamo svolgendo ha due vocazioni. Sì. Una prima vocazione è una vocazione di galleria d'arte, quindi nella sede dell'associazione sono esposte in maniera permanente delle opere di grandi artisti italiani del XX secolo. Posso citare De Chirico ovviamente, Chia, Palladino, Enrico Bai e anche dei giovani artisti emergenti. Dunque, una parte dell'attività nostra, direi non dell'associazione, ma di questo insieme di attività culturali, è sicuramente un'attività di galleria, di esposizione d'arte. I quadri sono in permanenza e la galleria può essere visitata. Sarete sempre accolti con piacere, in un clima molto disteso e molto informale. Dopodiché, se degli appassionati d'arte volessero anche acquistare quadri, ovviamente questa è un'attività, diciamo, galleristica in senso largo. Questa è una cosa. Invece l'associazione culturale è un'associazione non a scopo lucrativo, il cui obiettivo è, se posso usare una formulazione un po' di marketing che riassumo un po', è diffondere, per quanto c'è possibile, il meglio della cultura italiana. Il meglio della cultura italiana in un'ottica abbastanza larga, che può andare dalle arti figurative, alle arti visive, alla letteratura, alla musica. Quindi è una vera e propria associazione culturale. Che si occupa quindi di esportare, certo che non siamo gli unici, siamo tra coloro che intendono esportare la cultura italiana qua in Belgio, e anche creare per gli associati delle occasioni culturali in Italia. Quindi questo è in senso largo lo scopo della nostra associazione. Allora, io partirei nella descrizione dei differenti eventi, delle tipologie di eventi che hai appena enunciato, e partirei, come accennavo prima, proprio dalla pittura, perché so che ci sono cose molto interessanti ai quali hai già pensato e che partiranno proprio nel 2014. Sì. E ci siamo quasi. Sì, quindi noi abbiamo già concepito, diciamo, un programma di massima per le attività del 2014. Pensiamo di avere un incontro al mese più altre attività di cui potremo parlare. Per quanto riguarda la pittura, abbiamo previsto due eventi. Consiste in una conferenza data da uno storico dell'arte italiano sul movimento della transavanguardia, che è un movimento italiano, prettamente italiano, che è stato un po' coagulato, che si è coagulato intorno al critico d'arte Bonito Oliva, che ha come rappresentanti massimi Clemente, Sandochia, in parte anche Palladino può essere ricondotto a questa corrente letteraria, corrente artistica, scusatemi, e quindi tutti artisti che sono conosciuti nel mondo, esposti a New York, alla Tate Gallery, a Londra, e quindi ci sarà una conferenza su questa pittura, che è forse l'ultimo movimento di pittori che c'è stato in Italia. E un'altra attività nell'ambito della pittura che intendiamo fare è chiedere a uno degli artisti che lavorano per la galleria di Antonio Mignacci e anche per, in fondo per la galleria qua a Bruxelles, di raccontarci, in occasione di un vernissage, di una mostra personale, di raccontarci la genesi di una pittura, cioè come un pittore concepisce e poi realizza un'opera d'arte. Questo, ecco, per quanto riguarda la pittura abbiamo previsto queste due attività per adesso. E mi sembrano essere estremamente interessanti. Abbiamo già delle date per fare, sai, quei classici annunci, come dicevi prima, marketing save the date. Così. No, le date precise ce l'ho per la prima attività, che in realtà sarà una conferenza di architettura. Perfetto. Perché quindi passerei all'architettura. Un architetto belga che insegna tra l'altro anche all'Accademia de Beaux-Arts a Bruxelles, che ci farà una conferenza sull'architettura di Renzo Piano. Questa conferenza sarà il mercoledì 22 gennaio. A che ora? A partire dalle 18.30 alla sede dell'associazione, e ogni conferenza, ogni nostra attività sarà seguita da un buffet di prodotti italiani, ovviamente, di qualità. E questa sarà la prima attività. E nel mese di febbraio ci sarà la conferenza sulla pittura, sulla transavanguardia. E le nostre attività, diciamo, a Bruxelles si svolgeranno sempre o il mercoledì o il giovedì, per permettere agli associati di godere del loro fine settimana come meglio credono. Assolutamente. Però non parli solo di architettura, di pittura, ma ti occupi anche di musica. Sì, musica e letteratura. Quindi, per quanto riguarda la musica, io così personalmente conosco molti musicisti, proprio perché amo la musica e mi ha fatto piacere permettere a loro di suonare varie volte, di seguirli nella loro evoluzione. E il primo concerto che abbiamo pensato di fare a casa è un concerto di violino e chitarra, presentando delle aree italiane dal barocco a Paganini, perché la musica per violino e chitarra è forse meno conosciuta di altre, è particolarmente conviviale, e quindi ci ha fatto piacere scegliere questo tema. E la particolarità, io che ci tengo, che quando si svolgono delle attività anche musicali, che gli artisti possano anche un po' introdurre, spiegare, che ci sia sempre comunque una sorta di colloquio con il pubblico. Assolutamente. Volevo sapere una cosa, volevo chiedere, ma sappiamo anche gli autori di questi pezzi per chitarra e violino? Conosciamo anche gli autori? Chissà se si sente dalla regia. Gli autori saranno autori barocchi, dai più diversi autori barocchi fino a Paganini. Ah, fantastico. Che è stato poi, ha scritto le massime, i massimi. Paganini, che era egli stesso un chitarrista, in fondo, oltre che un violinista. Poiché il bello della diretta è proprio questo, cioè che ci sono delle piccole imperfezioni, questa sera stiamo veramente sopravvivendo soltanto con due microfoni e quindi, insomma, se vi rendete conto che c'è qualche suono, qualche domanda ripetuta più di una volta, avrete anche capito il perché. Prima di passare alla letteratura, io continuerei invece, per restare ancora nell'ambito delle arti, per parlare delle altre conferenze che pensi di organizzare, perché so che restiamo in terra campana per un evento, e quindi mi fa piacere che continuiamo a parlare di Campania, e sull'altra invece parliamo proprio di design, quindi restiamo ancora nuovamente magari in temi più legati all'architettura. Vuoi raccontarci qualcosa in più? Ma dunque, una conferenza che io farò personalmente, proprio per restare in tema campano, è sulla porcellana di Capodimonte. Io personalmente sono una grande amante della porcellana, mi è sempre piaciuta, e ho sempre sofferto del fatto che si chiamasse indiscriminatamente Capodimonte ogni tipo di qualsiasi porcellana fosse fabbricata nella regione campana, e invece vorrei così far conoscere, diffondere in più quello che è stato lo splendore della porcellana di Capodimonte nei 20 anni in cui è esistita la vera manifattura di Capodimonte. E poi un'altra attività, un'altra conferenza di cui non sappiamo ancora il conferenziere, dobbiamo informarci e trovare la persona più magari adatta. Lanciamo un appello in radio, già sì. Che siamo qui. Ma ho già qualche persona in testa, ma devo... È sul design italiano, una cosa che ovviamente ci fa lustro nel mondo, è la nostra scuola di design, e siccome la vocazione dell'associazione è anche ovviamente di far conoscere l'Italia ai non italiani, non solo rimanere tra di noi per raccontarci e dirci che quanto siamo bravi e quanto è bella l'Italia. Quindi ci sarà sicuramente una conferenza sul design italiano, ma il tema è ancora da definire. Dopodiché un'altra particolarità dell'associazione è che, come ho detto all'inizio, intendiamo organizzare dei circuiti artistico-culturali in Italia. E c'è una città che, permettetemelo di dire, io sono milanese, che ritengo che sia sempre considerata un po' la Cenerentola delle città italiane, che è Milano, da un punto di vista artistico-culturale, perché ovviamente Milano deve competere con Roma, Firenze, Venezia, eccetera. Però Milano è una città che ha delle pregevoli opere d'arte ed è pregevole di per sé nella sua architettura. Quindi pensavamo di organizzare, per gli associati che intendono, che hanno interesse a svolgere questa attività, vamo di organizzare un circuito di 3-4 giorni in primavera a Milano, dove ovviamente l'associazione si occuperà di tutto e anche quindi di far vivere agli associati dei percorsi della città, far conoscere Milano un po' al di là del fatto della capitale industriale o eventualmente della capitale della moda, che sono un po' le uniche cose che si sa di Milano al di fuori di Milano. E poi in ultimo intendiamo, durante soprattutto il periodo estivo, organizzare dei soggiorni di una settimana o anche 2 settimane in una terra splendida che è la terra di Pestum, che è la terra della nostra Marilena. Possiamo dirlo a grande voce, sì. Diciamo che possiamo dirlo, sì. È la terra di Meridì. Che è una terra splendida e che è anche la terra appunto del nostro Antonio Miniaci, che ha fondato un agriturismo nella campagna di Pestum, che ripropone un po' questa vocazione anche di benessere sia fisico sia agroalimentare, quindi una particolare attenzione anche al cibo e benessere anche direi intellettuale o emotivo, e nell'interno di questo agriturismo poi si organizzano conferenze sempre e circuiti, visite guidate in quella splendida regione che è la Campania, in particolare in quella regione, in posti che possono andare da Positano, Amalfi, Ravello, Pestum stesso. Quindi sono dei soggiorni assolutamente da scoprire, sì, perché sì, vi possiamo assicurare che per quanti non fossero ancora stati in quelle terre non mancheranno le sorprese. E come dicono gli inglesi, last but not least, salone letterario. Sì. E dunque posso già dire ai vostri cari ascoltatori che Marilena sarà la nostra moderatrice animatrice all'interno dell'associazione di saloni letterari. Ne prevediamo almeno 2, direi, uno nel primo semestre dell'anno e uno nel secondo, con degli scrittori. Stiamo contattando, sono in corso le trattative, con le case editrici. Marilena ne saprà molto di più di me e vi metterà al corrente, ma quindi sicuramente che la letteratura ovviamente ha uno spazio importante nelle nostre attività. E ricordiamo anche ai nostri amici all'ascolto che il secondo semestre del 2014 è particolarmente vivace e ricco per la cultura italiana, già che saremo nel semestre di presidenza italiano, quindi siamo sicuri che troveremo dei momenti, degli spazi dove continueremo a parlare ancora, ancora e ancora di cultura. George, questa della presidenza italiana mi è nuova, c'è la presidenza italiana a Bruxelles? E in realtà forse l'ho detto un po' troppo velocemente, il semestre di presidenza europeo che questa volta, quest'anno, tocca all'Italia. Ora ho capito, perdonami, Giorgio. Il consiglio, ora scusami, ho capito. Scusami, ora scusami, ho parlato troppo veloce, vedi il pensiero quando no, però, scorre veloce. Mentre sentivo parlare di questa associazione, mi è venuto in mente che, beh, insomma, ci sono moltissime cose che stai facendo, Carola, moltissime. E meriterebbero, insomma, di essere conosciute con mezzi, non solo il passaparola, ma anche con i mezzi. Io credo che Radio Alma è qui, a tua disposizione, se vuoi. Noi lo pubblicizziamo molto volentieri, perché soprattutto in questa radio passano, in questa trasmissione, anzi, soprattutto passano molti italiani che si sono dati da fare, che si stanno dando da fare a Bruxelles, in Belgio. Abbiamo artisti, abbiamo persone come te che creano associazioni artistiche, insomma, c'è un po' di tutto. E Radio Alma deve essere anche, anzi, soprattutto Bruxellando, deve essere proprio il punto focale di queste persone, il punto di ritrovo di questi italiani che all'estero, cioè, si stanno dando da fare, e devo dire anche con molto successo. C'è la creatività italiana che in questo modo si sta veramente rivelando, ed è un peccato. Bruxellando, io credo che, vedo che Marilena, anzi Mary D, annuisce, perché siamo d'accordo, questa è la nostra, proprio la nostra idea, quella di creare Bruxellando come centro di aggregazione anche di questi italiani, di queste nuove forze creative che appaiono sulla scena di Bruxelles soprattutto. Tra l'altro, proprio ne parlavamo probabilmente 2 settimane fa, la presenza italiana a Bruxelles è sempre più importante, sempre più interessante, ci sono prodotti di qualità, e siamo veramente contenti che Bruxellando riesce ad intercettare almeno il maggior numero di attività italiane. Allora, dopo aver parlato dell'associazione, dopo aver parlato degli obiettivi, come si fa a diventare membro dell'associazione? Come si può diventare associati? Allora, io volevo dire una cosa che non ho detto, perché vorrei ringraziare tantissimo la radio che mi dà, come è stato detto, che dà questa opportunità, che ha questa vocazione di, così, anche di diffusione della cultura, ed è una cosa essenziale. Vorrei ringraziare che noi siamo stati sponsorizzati nella nostra inaugurazione, nell'evento inaugurale della galleria dell'associazione, dalla Banca Monte dei Paschi e dall'Istituto Italiano di Cultura. E quindi vorrei ringraziare queste due istituzioni. E poi anche moltissimi italiani che sono qua a livello delle regioni, a livello istituzionale, ci hanno appoggiato per cercare di fare un po' di pubblicità. In pratica, per poter, diciamo, far parte dell'associazione bisogna iscriversi, magari vi rivolgerete alla radio, a Marilena, Bruxellando. Potete inviare le vostre email a bruxellando@gmail.com, così potremo darvi tutte le informazioni. Però, dunque, Marilena vi darà tutte le informazioni, diciamo, pratiche. Di fatto, cosa comporta, dunque, iscriversi all'associazione? Comporta la possibilità di partecipare alle attività di cui abbiamo brevemente parlato prima, la possibilità di partecipare agli itinerari turistici di cui vi ho parlato, la possibilità di beneficiare del 15% di riduzione sull'acquisto delle opere che sono esposte nella galleria, e anche la possibilità di beneficiare di riduzioni all'acquisto di prodotti italiani che saranno anche così proposti, prodotti culinari o artigianali che saranno proposti dall'associazione. La partecipazione comporta il pagamento di una quota annuale per i soci, diciamo, ordinari di 90 euro, per i giovani di meno di 30 anni di 50 euro, e se un associato volesse qualificarsi, diciamo, come benefattore, c'è anche la possibilità di fare un'offerta di 150 euro. Dopodiché, per ogni attività si richiederà una quota di 10 euro per i membri normali, di 5 euro per i giovani, supplementare, ma questa è per permetterci di organizzare questo buffet, di questo momento conviviale dopo l'attività. E poi, insomma, per organizzare gli eventi comunque di un certo tipo, di una certa qualità, sono necessari anche i supporti dei sostenitori oppure degli associati stessi. Carola, c'è qualcosa che non ti abbiamo chiesto e che vorresti dirci ancora in conclusione? Perché, ahimè, come vedi, il tempo in radio è tiranno. No, io l'unica cosa che vorrei dire è che se io faccio questo è per passione, perché sono stata educata così, perché penso che veramente l'arte sia, l'arte e la cultura siano le, i fattori che più ci permettano di vivere meglio, a parte ovviamente altri fattori di ordine materiale, e quindi è con, c'è un certo entusiasmo che faccio questo e spero di comunicare l'entusiasmo anche a quelli che vorranno seguirci, insomma. Assolutamente, io credo che questa sera il messaggio sia stato veramente chiaro e forte, quindi ricordiamo tutti coloro i quali sono all'ascolto che in un primo momento, se desiderate avere più informazioni, maggiori informazioni rispetto a quelle che siamo stati in grado di dirvi questa sera, potete scrivere a brussellando@gmail.com e da lì poi potrete avere tutte le informazioni necessarie. Noi ringraziamo Carola per la sua presenza, le auguriamo un ottimo Natale e un felice anno nuovo e, come certo, ha detto George, saremo ben lieti di promuovere. Assolutamente sì, promuovere Carola, che ringraziamo per essere qui alla radio. Siamo noi che ringraziamo te. Ma per essere venuta qui. Grazie a voi, grazie a voi. E così approfittiamo anche per dire, se ci sono altri, anzi voi italiani che state in ascolto, beh, insomma, palesatevi, venite Brussellando, è il vostro luogo, il luogo dove potete esprimervi, il luogo dove potete dichiarare quello che fate, il luogo dove condividere con gli altri italiani quello che state sentendo, che state provando, l'arte, la cultura, i vostri pensieri. Brussellando è qui per voi. Con Brussellando la cultura si colora. Bentornati. E adesso, Liberangolo. Oh, cos'è questa voce profonda? Beh, l'introduzione un po' più caratteristica, più professionale, un po' più alla Gianni Ciano, si può dire? Non ci siamo, non ci siamo. Comunque, stasera vi ho portato un classico. Oh, bene, un bel classico. Un bel classico, ma anche un classico sconosciuto, perché David Herbert Lawrence si conosce soprattutto per la sua opera L'amante di Lady Chatterley, che si conosce, che ha fatto grande scandalo al momento della sua apparizione e di cui abbiamo parlato anche in trasmissione. Quindi mi sono, a un certo punto mi sono incuriosita, perché mi sono detto che è impossibile che questo uomo abbia scritto soltanto un libro, e effettivamente ne ha scritto tantissimi, era un autore abbastanza prolifico, però le altre sue opere si conoscono abbastanza poco. E quindi ho scelto proprio uno a caso dal progetto Gutenberg, gutenberg.org, facciamo anche pubblicità a questa iniziativa bellissimissima. Sì, è veramente una bella iniziativa quella del progetto Gutenberg, devo essere onesto, è veramente molto bella. È molto bello, quindi ne ho scelto uno a caso che si chiama La ragazza perduta in italiano, e in italiano devo dire che è molto più difficile trovarlo, per trovarlo in forma stampata bisogna proprio comprare le opere complete di D.H. Lawrence, che sono edite, però non, il romanzo separatamente non si trova più in giro. Però sul sito di gutenberg.org si può sempre scaricare l'originale integrale e pronto per essere letto. E in questo romanzo si tratta di una ragazza che ha una sorte abbastanza particolare per la sua epoca. Si tratta degli anni appena prima della prima guerra mondiale, in cui ancora, diciamo, la struttura della società si spaccava fra un ceto alto con delle regole abbastanza rigide di comportamento e un ceto basso, fra di cui comunicazione ce n'era abbastanza poca. E nell'Inghilterra dell'esploitazione del carbone, piano piano si cominciava a urtarsi piuttosto che convivere, mm-hmm, se possiamo dirlo così. E, E in questo romanzo lui non presenta, cioè non si tratta di questioni sociali, ma semplicemente si tratta di una ragazza che con le sue scelte, piano piano, quasi volutamente, perde il suo status sociale. Perché come anche altri caratteri di D.H. Lawrence, sta fondamentalmente cercando un modo di vivere che sia vero, che di fare delle scelte che alla fine la portino di vivere le vere emozioni anche a costo della perdita dello status. E le sue scelte non sono assolutamente solite per l'epoca. Lei sarebbe una ragazza di ceto medio alto, quindi considerata comunque una considerata con tanto rispetto, che però vuole essere più indipendente, e se fosse uomo probabilmente sarebbe fosse stata uomo, si può dire così, probabilmente avrebbe girato per il mondo. E quindi lei fa un corso per fare l'infermiera ostetrica, che in quei tempi era comunque considerato come un'occupazione non di prestigio. Sì, la levatrice sarebbe stata. Sì, la levatrice. Mm. Comunque era già una professione medica, però bisognava studiare, cioè non si tratta mica di né di medioevo né del XIX secolo, quindi già si aveva accumulato un sacco di conoscenze sull'argomento, però comunque non era considerato un'occupazione degna. E poi rifiuta varie possibilità di sposarsi, e alla fine cede, diciamo, all'amore che bussa sulla sua porta, e segue quest'amore dove? In Italia! A santa pace! Perché D.H. Lawrence ha trascorso un bel e importante periodo della sua vita in Italia, e quindi vicino agli Abruzzi, Cos'è, un invito a tornare in Italia tutti quanti? Beh, praticamente, se uno considera quanto prominente fosse stato per esempio l'Italia per un sacco di scrittori di grande visibilità, di grande talento, che venivano da tutto il mondo per lavorare, ispirarsi, o semplicemente vivere e assorbire l'aria italiana, uno direbbe wow, è una cosa che abbiamo un po' perso nell'ultimo periodo magari, però forse non l'abbiamo perso. George Clooney vive in Italia, quindi... e non solo nel Chianti Shire vivono un sacco nel Chianti Shire. E comunque, cioè, quindi D.H. Lawrence anche lui spinge i suoi personaggi con amore verso l'Italia, e io ho l'impressione che un sacco di scrittori anglosassoni utilizzano l'Italia come per svelare, come per, non so, per rendere i loro personaggi un po' più aperti, o per scoprire la loro vera natura. E in questo caso non è completamente così. Comunque l'Italia sembra essere comunque a volte uno strumento nel realizzare la sorte delle persone. Comunque, allora, questa ragazza alla fine finisce in Italia. Però quello che è ancora interessante nel libro e anche in altri libri di D.H. Lawrence è il fatto di quanto i suoi personaggi siano un po' guidati da istinti che a volte sono giusti, per esempio istinti che ti spingono per prendere controllo della tua vita, per cercare di avere un percorso ben definito e che sia in armonia con il tuo essere, però sono anche istintivi in un modo che rende i personaggi molto cambievoli dal punto di vista del loro umore, direi, del loro... e questo a volte mi risulta addirittura strano, perché a volte penso che magari era il suo modo di guardare le donne, perché le donne sono molto spesso guardati da guardati dagli uomini come come molto cambievoli, che per un niente cambiano umore, da felici diventano tristi o all'inverso. E nel suo romanzo, cioè, cerca di attaccare, diciamo, questi cambiamenti a parole, a eventi, non sono sicura che sembra che sia sempre giusto, perché i suoi personaggi a volte sembrano proprio: ma che cavolo fai, scusa? E sarebbe questa la mia reazione ogni tanto, però comunque è interessante. È interessante come esperimento psicologico. Quindi, questo secondo me lo potete scoprire già anche nel Lady Chatterley, se non l'avete ancora letto, comunque ve lo raccomando. E se invece volete avventurarvi in territori meno conosciuti, allora potete sempre leggere La ragazza perduta, grazie a Gutenberg.org. Bene, questa ragazza perduta, questo squarcio su personaggi e storie intorno. Ma quando parlavi di ceto alto e ceto basso, intendevi borghesia e operai, proletari, o intendevi aristocrazia e borghesia? Cioè, diciamo che sarebbe alta borghesia, cioè quello che in Inghilterra si nominavano gentleman e gentlewoman. Quindi quelli che erano abbastanza abbienti da non dover avere un'occupazione per vivere, quindi quello vuol dire che ad un certo punto hanno accumulato delle ricchezze, e che hanno accumulato, oltre che ricchezze, hanno accumulato anche conoscenze, che si sono raffinati in un certo senso si sono innalzati fino a quasi essere aristocratici, all'eccezione del sangue blu. Ah, ho capito. Beh, vabbè, insomma, è sempre molto interessante quello che si dice. Vabbè, che dobbiamo fare? Credo. E io lo dico sempre che le pillole della nostra Fiordaliso sono straordinarie, anche quando non fa freddo, come è il caso di Bruxelles, eccezionalmente in questi giorni. Oltre che pillole, sono proprio dei sandwich interi, cioè non è che si può digerire. Ma ti posso dire una cosa, che ci sono toste. Delle pillole che sono pure toste. Sì, questo le vitamine, no? La vitamina C, bella, che prima non mattina. Non parliamo di altre pilloline di altro genere. No, assolutamente. No, io mi riferivo solo a cose fatte bene, energizzanti, e che non hanno nessun altro risvolto. Come annunciato qualche tempo fa, è finalmente qui con noi questa sera Tito Faraci. Ah, per quanti non lo conoscessero, Tito è stato... No, come sarebbe a dire per quanti non lo conoscessero? Beh, George, l'informazione passa anche per quelli che non lo sanno. Comunque, quanti non conoscessero Tito Faraci, è uno scrittore di sceneggiature in Italia e all'estero. Ha esordito con Walt Disney Company, quindi insomma con una company molto conosciuta. Ha scritto la serie di Dylan Dog e di Diabolik. Però questa sera è con noi per parlarci del suo secondo young adult, come si chiama adesso, romanzo, dal titolo Death Metal, pubblicato con PM. Tito, buonasera, benvenuto a Radio Alma, Bruxellando. Buonasera a tutti, è un'intervista davvero particolare. Eh beh sì, perché diciamo che questa sera non so se riusciremo a parlare di tutte le cose che avremo veramente piacere di parlare con te, ma ci proveremo, perché siamo veramente curiosi di ascoltarti. Ma innanzitutto, Tito, raccontaci di te, come hai iniziato? Ma io ho due inizi, bisognerebbe forse anche tre in un certo senso, perché nella mia vita, insomma, ho aperto un po' di porte, a volte senza chiudere poi alle spalle le altre. I miei inizi sono stati quelli di giornalista musicale. Questo, insomma, è una cosa di cui parlo poco nelle biografie, ma parlando di questo romanzo di Death Metal mi sembra che è giusto dirlo, perché è un romanzo dove la musica ha un peso enorme, un riferimento continuo. E poi a un certo punto, alla metà degli anni 90, sono passato ad un amore che avevo fin da bambino, quando avrei voluto fare il fumettista, ma pensavo che non sapendo disegnare non l'avrei mai potuto fare, e ho cominciato a sceneggiare fumetti. Era un lavoro che non ho mai smesso, prima con Disney, poi Lupo Alberto, Diabolik, poi Vain Bonelli, dove oggi scrivo Tex. Però questo spostamento da un personaggio all'altro è stato fatto in modo tale che, insomma, ho smesso di scriverne ben pochi, anzi adesso mi trovo a scrivere un giorno una storia di Topolino, un giorno una storia di Diabolik, un giorno appunto una storia di Tex. Ed un altro inizio ancora è stato quando a questo lavoro di sceneggiatore di fumetti, la sceneggiatura è un tipo di scrittura particolare, insomma un po' la progettazione di una storia, non è, c'è di mezzo un disegnatore, è un lavoro un po' nascosto, misterioso, in cui la scrittura non arriva mai sotto gli occhi del, nella sua completezza, sotto gli occhi del lettore, ma c'è la mediazione di qualcuno che disegna la storia. Insomma, ho avuto un nuovo inizio quando ho affiancato alla sceneggiatura del fumetto la scrittura di romanzi. Prima avevo scritto per la verità un romanzo breve, ma di cui sono molto contento, per bambini, intitolato Il canepiro avventure di un fantasma, e poi due romanzi, Oltre la soglia e adesso Death Metal. E come cambia secondo te il tuo approccio alla creatività? Questa sera stiamo molto parlando di creatività, di genio e talenti italiani, quindi questa tua, diciamo, capacità di poter coniugare più arti o comunque più stili, qual è l'elemento in comune? Qual è quell'elemento da cui poi riesci a traslare tutte queste differenti forme di creatività? Ma questa domanda è chiaramente in forma magari diversa, me la sono sentita a fare varie volte. A me, in una riflessione, viene in mente che, almeno per quanto riguarda la mia personalità, le mie inclinazioni, mi viene più facile fare tante cose che farne una soltanto, mi viene più naturale, perché questo nasce dai gusti personali di lettore, ma anche di spettatore, perché poi alla fine le storie si fruiscono attraverso la lettura di romanzi, di fumetti, la visione di cinema, anche di buona televisione. A me piacciono molto i generi, dall'horror alla fantascienza, passando per il giallo, per il noir, per la commedia, però tante cose diverse. E così come mi capita da spettatore, da lettore, di non leggere solo un tipo di storia, ma di volerne leggere tante, ecco, per riflesso in maniera molto naturale, per non annoiarmi e di conseguenza non annoiare, mi viene naturale scrivere storie di tipo molto, molto diverso fra di loro. Poi alla fine ci trovo sotto una mia cifra stilistica, e forse proprio questo amore per i generi che è l'elemento comune denominatore, per quanto possa sembrare un po' sfumato. Il piacere che trovo nel capire quali sono i meccanismi, le regole dei generi, e poi un po' rispettarli, un po' usarli, un po' anche no. Un po' sorprendere il lettore che si trova in un ambiente familiare all'interno di un genere, però dargli qualcosa di un po' diverso, ogni tanto uscire da questi sentieri. Ecco, forse questo è proprio l'elemento comune denominatore, dicevo, è la cosa che mi permette in maniera naturale, questo poi a prescindere dalla bontà dei risultati, che non sta mai a giudicare, però io sento molto naturale poter cambiare genere, cambiare personaggi, mai cambiare stile, però, in realtà, perché posso scrivere cose paurose, cose che devono spaventare, cose che devono fare ridere, ma io ci trovo comunque dentro, lo vedo i segni di quello che è il mio stile. E allora veniamo a Death Metal, perché è una storia, devo dire, molto particolare. Non ti nascondo, prima di passare alle domande, che mentre ti leggevo immaginavo già le scene dei fumetti. Immaginavo proprio la sequenza nel raccontare le storie di questo gruppo, gli Snake God Hunters, e molto spesso cercavo veramente di traslare la tua scrittura in immagini. Allora, come mai hai deciso di scrivere questo tuo secondo romanzo? Sei passato dai bambini alla tua passione per la musica, ritorna quindi questo elemento di questa sera non riesco più a parlare. Ma io volevo scrivere un romanzo a un certo punto che fosse duro, violento, veloce, come un pezzo di death metal, come un buon musicale di death metal. In realtà devo dire una cosa, che nel campo del fumetto io non sono mai riuscito, per come è fatto il fumetto popolare italiano, non è un limite, anche proprio sono delle caratteristiche, non sono mai riuscito a scrivere una storia violenta e dura, anche cupa, come quella di death metal. E un'altra cosa è che effettivamente io capisco che molto del mio mestiere di sceneggiare è passato trasformandosi fino a un certo punto nella mia scrittura, nello stile che ho applicato da narratore. L'abitudine, è vero che scrivere non è descrivere, però è anche vero che insomma una certa capacità di descrivere, di far vedere come attraverso il tuo sguardo, no, il lettore, suscitargli delle immagini nella mente che siano precise, sapere spiegare con poche parole, come si impara nel mestiere di sceneggiatore, come è fatto un luogo, come è fatto un personaggio, sapere descrivere, come capita per il mestiere che faccio, che cos'è una scazzottata, che non è solamente darsi dei pugni, ma come, che male fanno e come sono fatti tutti i colpi di questa scazzottata. Ecco, questa capacità di aprire gli occhi del lettore, di spingere lo sguardo del lettore dentro la storia, beh, io l'ho portato nella mia scrittura. E in questo caso, però, non avrebbe mai potuto essere un fumetto, almeno nel mio campo, questa storia. Ripeto, un po' perché è molto cupa, violenta e dura, più di quanto si usa abitualmente nel fumetto popolare italiano a qualunque livello, quello che si trova in edicola, e un po' è anche, senza rivelare sorprese, non vorrei mai farlo, perché c'è un elemento di qualcosa che è nascosto lo sguardo del lettore, diciamo così. C'è tutta una storia nel passato che attraversa Death Metal, che si svolge in parte nel passato e in parte nel presente, ma nella parte nel passato, almeno per una parte abbastanza lunga del libro, non si sa quale dei personaggi presenti nella parte del presente è quello che è protagonista della parte del passato. Se in un fumetto io avessi dovuto fare disegnare questa cosa, il gioco sarebbe... Lo so, però... Quanto siamo stato bambino e poi ragazzino, insomma, si sarebbe visto immediatamente. Però ci sono scene... La storia così non avrei potuto. Dai, ci sono scene, non voglio, purtroppo non possiamo svelare molto, però... cari amiche e cari amici, vi assicuro che leggendo comunque si capisce che dietro da quella penna c'è anche una matita che avrebbe potuto veramente ricreare quelle scene anche sul disegno. Tito, volevamo proporti una lettura, magari per dare un assaggio della tua scrittura ai nostri ascoltatori, se tu fossi d'accordo. Va bene, basta che è successo un curioso incidente, però, che è una cosa che capita agli scrittori, mi immagino. Quello che succede è che la gente arriva a casa mia, ho il tuo libro, io lo regalo, e quindi a questo punto mi trovo non averne neanche una copia in questo momento, perciò la lettura non potrò farla io. Non ti preoccupare, ci pensiamo, siamo attrezzati anche per quello. Magnifico, così vi ho raccontato un piccolo spaccato di cosa succede quando si scrive un libro. È soltanto un bambino. Questo lo direste voi, guardandolo. Magari se non siete troppo vicini, mentre in mezzo ad altri bambini. Potrebbe confondersi fra di loro. Ma non lo fa. No. Lui non sta mai in mezzo agli altri bambini. Se ci provasse, se avesse interesse a farlo, quelli si allargherebbero a cerchio. Meglio stargli lontani. Lontani da lui e da quel cagnaccio nero, incrocio di un milione di razze, forse non tutte canine, unico suo compagno di giochi. Giochi del tipo tirare un sasso, farselo riportare al cane, tirarlo ancora, farselo riportare ancora, e avanti così, tutto il pomeriggio. Si chiama Attila, il cane. Non il bambino. Per il nome di quello dovrete aspettare. La storia è solo all'inizio e nessuno ci corre dietro. Non ancora. Questa è proprio, penso, una delle prime pagine del romanzo, se non la prima. La prima. Allora, tutto comincia da lì. Io però adesso che ho letto vorrei fare al padre di Brad Barron al grande padre di Brad Barron, qua sembra, hai un fan in radio, adesso finalmente per me, adesso sono anche emozionato perché il padre di Brad Barron così, che fa un assolo di Dave Lombardo col suo romanzo. Vedi, allora sei un appassionato di fumetto, questo mi fa piacere, ma sai di che cosa stiamo parlando anche riguardo alla musica. Sì, però adesso... È presente, chiunque l'abbia letto e conosca un po' anche di quel genere musicale, mi riconosce, insomma, sì. Giustamente di questa cosa mi sono fatto veramente un punto d'onore di avere parlato come chi sa di chi sta appunto parlando e di che cosa. Sai che leggendo il tuo romanzo... Non ho potuto fare a meno, ma questo l'hai detto anche tu pochi minuti fa, non ho potuto fare a meno di fare un'associazione con un personaggio, non con un libro, con un personaggio descritto, che era Mr. Gwynn, che dipingeva con le parole. Ecco, questo, io veramente nel leggere il tuo romanzo devo dire che hai dipinto con le parole. Complimento meraviglioso. è proprio quello che forse cercavo di dire a Marilena prima in qualche modo, ma è veramente una cosa incredibile. Io lo consiglio ai lettori, se avete voglia, di provare un'esperienza diversa. È vero che è violento, è vero che è come una solo di Dave Lombardo, quindi vi deve piacere un po' il death metal, ma comunque l'atmosfera che c'è intorno. Ma al di là delle sorprese, al di là dei personaggi, al di là della storia, veramente troverete un dipinto in parole. Io non ho altre parole per descriverlo. Tito, noi... noi, vedi... Molto. Vorrei anche dire che se non avete mai sentito una nota di death metal e non sapete neanche che genere musicale sia, riuscirete a leggere il romanzo e a capirne ogni singola virgola. Non è questo. Assolutamente. Assolutamente. Non è una chiave di lettura, ecco. Tito, noi ti ringraziamo veramente per la squisita disponibilità. Ricordiamo ai nostri amici all'ascolto, death metal, questa volta pubblicato da PM, ma ringraziamo anche Simone Marchi, che è stato il nostro punto di contatto. Tito, in bocca al lupo e speriamo a presto. Un saluto a tutti quanti. Buona serata. Grazie infinite. Buona serata a voi. Ciao. E essendo Natale, già è capitato che abbiamo avuto una sorpresa qualche giorno fa, allora ne abbiamo un'altra in chiusura di trasmissione. È stata più volte nostra ospite, diciamo già registrata, quindi ora è veramente un piacere per noi avere Federica Bindi, la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura qui a Bruxelles, proprio a Bruxellando. Buonasera, buonasera. Eccoci, buonasera a tutti. Eccoci qua, con i nostri mezzi questa sera un po' di fortuna, abbiamo qualche problema di regia e di strumentazione. Salve, buonasera. Buonasera. Non si preoccupi, sono abituata ai problemi di regia e di strumentazione. Ecco, ecco, abbiamo cominciato subito a mettere in punto. Niente. Velocemente, allora, un augurio ai nostri amici all'ascolto. Ma innanzitutto buon Natale, direi ormai. Venite venerdì, abbiamo la festa di Natale, venite, sabato abbiamo quella dei bambini, domani sera abbiamo un evento sulla comunicazione, lunedì abbiamo il film, dopodiché stramazziamo stanchissimi e ci rivediamo a metà gennaio. Bene, noi invitiamo quindi tutti i vostri amici all'ascolto di partecipare alle attività dell'Istituto Italiano e ci aspettiamo ancora tantissime sorprese per il 2014, perché siamo certi non mancheranno.